Mezzogiorno di Simone Spezia. Dal carcere come dissidente al Nobel per la pace e oggi al governo, Aung San Suu Kyi vince le elezioni nell'ex Birmania. Anche l'OCSE alza le stime sull'Italia, più 0,8% quest'anno, più 1,4% nel 2016, bene la riforma del mercato del lavoro. Sono 24.000 i turisti russi rientrati da Sharm el Sheikh, scambio di informazioni tra Mosca e Londra sull'attentato all'aereo nel Sinai. Da Ivani ai metri quadri, l'Agenzia delle Entrate inserisce nelle misure catastali la misura standard, varrà per 57 milioni di immobili. Protesta per i prezzi del latte, Coldiretti blocca il magazzino di Lactalis in Italia, l'azienda costretta a sospendere il ritiro del prodotto da alcune stalle. MotoGP il giorno dopo con i veleni di Valentino Rossi contro Marquez, comunque vada una brutta vicenda che può colpire tutto il movimento motociclistico. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura dunque andiamo all'estero, in Asia orientale, per un fatto storico, il trionfo elettorale nell'ex Birmania della Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Piove a dirotto a Yangon, l'ex capitale, ma nonostante l'acqua festeggiano i sostenitori di Aung San Suu Kyi. I primi dati indicano infatti la netta vittoria della Lega Nazionale per la Democrazia e ancor più la dimostrano le parole del leader del partito di governo, l'USDP, emanazione della giunta militare che direttamente o indirettamente è al potere dagli anni 60. Abbiamo più sconfitte che perdite, dice Htayo, commentando i primi dati. 15 su 16 dei seggi attribuiti per il Parlamento sono andati alla formazione della vincitrice del premio Nobel per la pace. Non bastano, perché per Costituzione un quarto degli scranni sono riservati ai militari, ma certo l'inizio è molto incoraggiante. Per Aung San Suu Kyi, che negli ultimi 15 anni è entrata e uscita dagli arresti domiciliari, queste sono state le prime elezioni in cui ha votato. Era agli arresti nel 1990, quando il suo partito trionfò ma venne fermato dai militari. E quando nel 2010 la giunta accettò di indire le elezioni che portarono all'attuale governo, la Lega Nazionale le boicottò, bollandole come una farsa. Anche se vincerà, Aung San Suu Kyi non potrà diventare presidente, in ragione di una norma che impedisce a chi ha congiunti con passaporto straniero di assumere la massima carica. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo una notizia appena battuta dalle agenzie. Due militari americani sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco oggi in Giordania da un cadetto giordano durante l'addestramento di quadri della polizia ad Amman. Lo riferiscono fonti della sicurezza locale citate dal quotidiano libanese The Daily Star di Beirut. L'omicidio si è poi tolto la vita con un colpo di pistola. Appena avremo maggiori dettagli su quello che apparentemente sembra configurarsi come un attentato, ve li daremo. E di certo è stato un attentato quello che è avvenuto nel Sinai, la vicenda è ancora quella dell'aereo caduto sabato 31 ottobre con a bordo 224 persone mentre era in volo tra Sharm el Sheikh e San Pietroburgo. Proseguono i rientri di turisti russi, sentiamo. Mentre la Russia ammette di aver ricevuto dagli inglesi alcuni dati sulla tragedia aerea nei cieli del Sinai, prosegue il piano di rientro dei turisti dopo che Mosca e Gran Bretagna hanno bloccato i voli sul Mar Rosso. 23.000 i russi rimpatriati nel weekend con voli speciali sui 79.000 che si trovavano in loco. Quasi 200 gli italiani con voli EasyJet rientrati tra stanotte e sabato notte. Altri due voli della compagnia britannica sono previsti nel pomeriggio da Sharm a Londra, ma ancora non si sa se ci saranno connazionali a bordo. Chi non vuole aspettare può comunque comprare biglietti di altre compagnie italiane, visto che la Farnesina non ha bloccato i voli, come Meridiana, che domani e giovedì ha i voli di rientro da Sharm pieni. Pur non in presenza di cancellazioni, si vede un rallentamento degli ingressi perché il volo in andata non è pieno, mentre il ritorno di giovedì è 189 su 189. Così ci racconta Massimo Crippa, direttore vendita di Meridiana, spiegando che i voli procedono regolarmente e non ci sono state cancellazioni, ma un rafforzamento delle misure di sicurezza come previsto dall'ENAC. I controlli quindi possono durare anche 5-6 ore, raccontano gli stessi testimoni, mentre l'Egitto si difende. Siamo capaci di gestire i nostri aeroporti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di questo, arrivano in questi minuti delle dichiarazioni da Mosca, sono quelle del premier russo Dmitry Medvedev, che dice: per garantire la sicurezza delle vacanze in Egitto ci vorrà tempo, la sospensione dei voli è necessaria per precisare definitivamente la causa della catastrofe dell'A321. Un'ampia pagina economica adesso, iniziando dalle previsioni di questa mattina dell'OCSE sull'andamento dell'economia mondiale e italiana. Non siamo ancora tornati ai livelli pre-crisi e questa è la premessa, il filo rosso che lega tutta la presentazione del segretario generale dell'OCSE, Gurria. I paesi emergenti rallentano e gettano nubi sulle previsioni globali di crescita, che vengono riviste al ribasso ancora una volta sotto il 3% per l'anno in corso. Detto questo, il segretario si congratula con l'Italia. Ci sono volute molta determinazione e molta convinzione per ottenere l'approvazione della riforma del mercato del lavoro, che numerosi altri governi prima non erano riusciti a far avanzare. Il Jobs Act e gli sgravi per le assunzioni stanno trainando la svolta del mercato del lavoro, hanno portato a un rilevante aumento dei nuovi contratti a tempo indeterminato e ampliato le reti di sicurezza sociale, rendendo la crescita più inclusiva. Così l'OCSE, per cui il tasso di disoccupazione calerà dal 12,3% di quest'anno fino all'11% del 2017. Anche alla voce ripresa gli analisti scrivono che l'Italia sta gradualmente prendendo velocità, la fiducia di famiglie e imprese spinge i consumi. Il grafico però dice che oltre l'1,4% il PIL non crescerà nell'anno prossimo né nel 2017. Potrebbe aiutare ad adottare nuove misure per migliorare il credito bancario, che resta limitato a causa di un'elevata quantità di prestiti deteriorati, il che ostacola la crescita degli investimenti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tutto avviene mentre la legge di stabilità approda al Senato, arrivano anche degli emendamenti. Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, il testo entra nel vivo questa settimana in Commissione Bilancio, l'obiettivo di Governo e maggioranza è quello di portarlo in aula a partire da lunedì prossimo. Sul percorso della Commissione ci sono tuttavia 3.563 proposte di modifica, esclusi gli emendamenti del Governo che sono ancora tutti da verificare. Sono comunque diversi gli argomenti che potrebbero subire modifiche durante l'iter parlamentare, si va dall'aumento della decontribuzione per i neoassunti al Sud, al credito d'imposta finalizzato agli investimenti nel Meridione, dalla possibilità di tassare le seconde case date in uso ai figli ma con comodato registrato, allo sconto sulle aliquote IMU TASI per i fitti concordati ed ancora poi una migliore definizione del nuovo canone RAI, la riduzione del tetto sul contante nei money transfer e una possibile soluzione alla vicenda dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Ad intervenire intanto sulla situazione economica del paese il ministro Padoan, che dice: dopo anni di stagnazione l'Italia si riprende e velocemente, perché stiamo effettuando profonde riforme strutturali, allo stesso tempo risparmiamo. Il risultato, spiega il titolare del Tesoro, è su due fronti: debito in calo e crescita su. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Intanto cambiano, lo ha comunicato questa mattina l'Agenzia delle Entrate, alcune regole che riguardano il catasto e la misura delle nostre case. Arrivano finalmente i metri quadri, lo scrive oggi l'Agenzia delle Entrate, ma lo scriveva già oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore Cristiano Dell'Oste, che è in linea con noi. Cristiano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa cambia esattamente? Cambia che da questa mattina, da adesso in sostanza, chi accede per fare una misura catastale sia come privato, quindi tramite le credenziali di Fisco Online, quelle della precompilata per intenderci, sia come professionista, tra le altre informazioni che trova, tra le tante informazioni, avrà anche la metratura, diciamo, della superficie catastale del suo immobile, quindi la superficie che risulta in catasto. Attenzione, questo non è che cambia l'importo della rendita catastale, è un'informazione aggiuntiva ed è un'informazione utile perché comunque ai fini della TARI, cioè la tassa sui rifiuti, si considera, diciamo, come soglia per il prelievo proprio l'80% della superficie catastale, quindi permette di fare intanto un riscontro per capire anche se si sta pagando la tassa rifiuti su una superficie corretta. Perché prima veniva calcolato invani? Allora, il catasto, diciamo, che funziona e funziona ancora invani, è ancora così per le abitazioni e gli uffici. Il vano rimane, non è che sparisce, sarebbe dovuto sparire nell'ottica della riforma, però Il catasto conteggia già anche le superfici ricavate dalle planimetrie e quindi questa informazione oggi viene resa trasparente a tutti in modo tale che appunto si possa fare questa verifica ai fini della tassa rifiuti, che invece andava e continuerà ad andare per metri quadri. In un secondo, per fare questo basterà andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate? Sì, esattamente, con le credenziali di Fisco Online, quelle appunto usate per la dichiarazione precompilata, oggi ci sono già circa 5 milioni di italiani che le hanno. Grazie. Gli altri le possono richiedere senza difficoltà, insomma. Grazie a Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, maggiori dettagli tra l'altro sul Sole 24 Ore oggi in edicola. Siamo alla pagina politica che oggi si gioca su vari fronti, da una parte la manifestazione di ieri unitaria del centrodestra, dall'altra la progressiva composizione delle candidature per le amministrative di primavera. Iniziamo proprio dalle amministrative. Dopo giorni di tentennamenti, Giuseppe Sala sembra pronto a sciogliere la riserva. L'amministratore delegato di Expo ieri ha dato una sua disponibilità a scendere in campo a Milano come candidato sindaco del centrosinistra. Da qui a dire che si può fare c'è di mezzo qualche settimana di lavoro, ha però aggiunto il manager che prima di correre per la poltrona di primo cittadino dovrebbe comunque superare le primarie sulle quali il centrosinistra milanese è ancora al lavoro. Chi ha già scelto il suo candidato nel capoluogo lombardo è invece il Movimento 5 Stelle. I militanti grillini ieri hanno nominato la disoccupata 52enne Patrizia Bedori, che si è subito detta pronta a dare voce ai cittadini. Cercherò in tutti i modi di coinvolgere ognuno di voi per insieme, e non solo voi, anche i cittadini, anche le associazioni e anche veramente di cambiare Milano. Se a Milano il quadro inizia a chiarirsi, non avviene altrettanto a Roma, dove le forze politiche sono ancora al lavoro per costruire il dopo Marino. Il governatore Zingaretti oggi ha escluso una sua candidatura per il centrosinistra. Il democratico Orfini ha invece attaccato la neonata sinistra italiana, accusandola di voler sostenere nella capitale la destra populista di Grillo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il fine settimana politico ci consegna proprio i due fronti nuovi, quello di Sinistra Italiana del quale abbiamo appena accennato e quello del centrodestra che ritrova unità. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, è stata la svolta del centrodestra, commenta il presidente della Lombardia Roberto Maroni. Quando si va in piazza a fare festa e a mettere le condizioni perché riparta la grande alleanza, non si può che essere soddisfatti. Ieri è stata una giornata importante, dice Maroni, una svolta, e adesso lavoriamo per vincere le prossime elezioni. Silvio Berlusconi non è stato fischiato, assicura il governatore della Lombardia, ma intanto però i dubbi ci sono soprattutto nell'ala moderata di Forza Italia. Va bene l'unità, ma Forza Italia sia il traino, per esempio ammonisce Michela Biancofiore. Plaude invece Renato Brunetta, il centrodestra unito vince, tutti gli altri rosicano. Ieri siglato un patto a tre, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, escluso invece pesantemente attaccato Angelino Alfano del nuovo centrodestra. Per Salvini è un inutile cretino che non sarà mai con loro, mentre Berlusconi si è riproposto leader ma è stato gelato dai fischi della piazza e poi attaccato. Renzi è un duce e Grillo parla come Hitler. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento dopo la giornata di ieri del centrodestra. Ci spostiamo a Ospitaletto Lodigiano in provincia di Lodi, dove è in corso da tre giorni una protesta della Coldiretti sui prezzi del latte che oggi sta sostanzialmente raggiungendo il suo culmine. Si trova là la nostra inviata Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, siamo in effetti al terzo giorno e notte di presidio con tanto di trattori e mucche. Qui a fianco a me c'è una delle mucche simbolo, mi dicono che è la nipote della mucca Onestina, la ricorderete di altre battaglie dei produttori di latte. In questo caso siamo davanti allo stabilimento Lactalis, gli allevatori della Coldiretti provenienti da diverse regioni in Italia protestano perché sostengono che Lactalis e altre aziende sottopagano il latte italiano al di sotto dei costi di produzione. Nessun ricatto ci fermerà, ha detto poco fa dal palco il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo, che ha anche fatto sapere che da domani gli allevatori saranno all'interno dei supermercati per spiegare alle persone, al pubblico, le ragioni della protesta. Secondo Moncalvo, gli industriali che sottopagano il latte italiano al di sotto dei costi di produzione sono gli stessi che hanno tentato il colpo di mano per chiedere il via libera sull'uso delle polveri di latte dei formaggi made in Italy. Nella protesta tra l'altro hanno anche fatto proprio i formaggi con il latte italiano, non con le polveri come invece fanno i francesi. Questo era lo slogan della protesta. Fra gli altri slogan, anche le multinazionali mungono gli allevatori e tradiscono le mucche. ci dovevano essere circa 2.000 persone, ora si stanno dando il cambio, un cambio della guardia fra allevatori che provengono in questo caso dal nord Italia rispetto al centro, fino a ieri sono stati allevatori del centro Italia, per ora è tutto. Per il momento è tutto, grazie Valentina, per il momento hai detto bene, perché ti ritroveremo tra poco e ci porterai al microfono proprio un paio di allevatori per capire come stanno vivendo questi momenti. La cronaca italiana ci porta ad Ancona. Peggiorano le sue condizioni, è in coma irreversibile nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Torrette ad Ancona. Fabio Giacconi, il sottufficiale dell'aeronautica ferito sabato a colpi di pistola dal fidanzato della figlia, è in condizioni gravissime. Antonio Tagliata, 18 anni, ha confessato di aver sparato a lui e alla madre della giovane deceduta sul colpo, Roberta Pierini. Ma non era mia intenzione, ho sparato perché aggredito, ha ribadito più volte agli inquirenti dicendo di essersi presentato insieme alla fidanzata minorenne per avere un chiarimento con quell'uomo e quella donna che si opponevano alla loro relazione. Una versione che stride però con il fatto che il ragazzo pare si fosse presentato a casa loro con ben 86 proiettili. Non doveva finire così, quando ha sparato sono rimasta impietrita, ha dichiarato invece la ragazza. Uno scaricabarile nel quale è intervenuto anche il padre di lui. Mio figlio è un gigante buono, è stato plagiato, lei gli ha messo la pistola in mano. Una storia dunque ancora con molti punti da chiarire. L'udienza di convalida del fermo si terrà domani, così come l'autopsia sul cadavere della Pierini. Antonio Tagliata intanto è rinchiuso in carcere, la sedicenne si trova in una comunità protetta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione torneremo a collegarci con Valentina Furlanetto, come vi abbiamo detto poco fa, e sentiremo anche degli allevatori. Torneremo a Messina, perché non ve ne foste accorti, nel fine settimana è rimasta senza acqua e continua a essere senza acqua da 2 settimane, e poi parleremo anche di MotoGP, a tra poco. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: due militari americani sono stati uccisi da un cadetto giordano durante l'addestramento, l'uomo si è poi tolto la vita, potrebbe essere un attentato, ancora non abbiamo dettagli. Dal carcere come dissidente a Nobel per la pace, e oggi al governo, Aung San Suu Kyi vince le elezioni nell'ex Birmania. Sulla manovra arrivano gli emendamenti sull'innalzamento del tetto al contante. Il fronte comprende Movimento 5 Stelle, minoranza del PD e Sinistra Ecologia e Libertà. Dai vani ai metri quadri, l'Agenzia delle Entrate inserisce la misura nelle visure catastali. Varrà per il calcolo della tassa sui rifiuti. Buongiorno a Calogero Foti, ingegnere, dirigente generale della Protezione Civile in Sicilia, commissario delegato per l'emergenza idrica. Buongiorno Foti, benvenuto. Buongiorno. E si sta occupando evidentemente in queste ore della vicenda di Messina. Ci riesce innanzitutto a darci un quadro di quante abitazioni hanno l'acqua in questo momento? Ma le abitazioni vengono quasi interamente raggiunte, purtroppo non in modo continuo. Preferibilmente il servizio viene erogato alle zone basse, che è più facile raggiungere, mentre i quartieri della zona alta sono in atto svantaggiato. Ha un'idea di copertura in questo momento? Quanto? Un 30-40% delle abitazioni, più o meno? Un 30-40% dell'erogazione, diciamo? Non abbiamo fatto un calcolo preciso, perché generalmente ragioniamo per quartieri, per abitanti. Diciamo che il 60% degli abitanti in questo istante ha qualche problema. Allora, ci dica un po' come intendete risolvere la questione, perché noi l'abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori. C'è stata prima la rottura dell'acquedotto a Fiume Freddo a causa di una frana. Si pensava fosse stato aggiustato, poi si è rotto di nuovo, la facciamo molto semplice. Si è creato un bypass dall'acquedotto dell'Alcantara e poi si è rotto anche quel bypass. Come intendete procedere adesso? Questo è stato ripristinato e adesso si cerca di rifunzionalizzare la condotta da Fiume Freddo per garantire un apporto sufficiente al rientro, diciamo, alla normalità alla città di Messina. E quindi sostanzialmente, mi scusi, si torna a quella che era l'ipotesi iniziale, cioè nelle ore subito dopo la rottura dell'acquedotto di Fiume Freddo si pensò di fare immediatamente un bypass e di non ripristinare quello esistente. È quello che si sta pensando di fare adesso, una derivazione in sostanza? No, nelle more del sistemazione della condotta nel suo insieme, si crea una condotta alternativa che consente la ripresa della funzionalità dello stesso acquedotto. Che tempi prevede per il ripristino completo di una situazione di normalità? Ieri abbiamo condiviso questo progetto con AMAM, già da stamani sono al lavoro. Il tempo necessario, il più breve tempo possibile, ma insomma io ritengo che non sia meno di una settimana. Non meno di una settimana. La ringrazio, grazie a Calogero Foti, ingegnere dirigente generale della Protezione Civile in Sicilia, commissario delegato per l'emergenza idrica, e come promesso torniamo in provincia di Lodi, a Ospitaletto Lodigiano, dove si trova la nostra Valentina Furlanetto, credo con un paio di allevatori che stanno protestando da 3 giorni contro Lactalis e una serie di altre aziende per il prezzo del latte. Valentina, eccoci. Sì, ciao Simone, in effetti qui il presidio continua da più di 3 giorni con un passaggio di testimone fra gli allevatori che sono davanti allo stabilimento Lactalis di Ospedaletto Lodigiano, allevatori della Coldiretti provenienti da diverse regioni in Italia che sostengono che queste multinazionali sottopagano il latte italiano al di sotto dei costi di produzione, le multinazionali mungono gli allevatori, è uno degli slogan, e trascurano le mucche, vogliono un latte italiano con nome e cognome. Domani ci sarà anche un tavolo a Roma con il ministro dell'agricoltura Martina e Assolate, ma abbiamo qui proprio 2 allevatori, una signora, una allevatrice, la signora Pirola, alla quale chiedo subito se andranno avanti ad oltranza. Poi abbiamo anche il signor Grugni che ci racconterà, anche lui allevatore. Sì, buongiorno, noi siamo qui e intendiamo ad andare avanti ad oltranza perché vogliamo che venga riconosciuto il giusto prezzo alla stalla del latte, perché a 33 centesimi quando la grande distribuzione lo vende a 1,60 euro, il consumatore finale non ha ancora percepito che alla stalla il latte è diminuito, non si può più andare avanti, per cui domani ad oltranza andremo anche nella grande distribuzione dove incontreremo i consumatori finali ai quali spiegheremo questo gap. Valentina, hai un altro allevatore sì, con te? Buongiorno a tutti. Sì, buongiorno, prego. A tutti, sono Gian Enrico, sono un giovane allevatore qui di Lodi, anch'io sono qui da 3 giorni a sostenere. Abbiamo fatto questa manifestazione perché contestiamo una multinazionale francese che si è appropriata comprando dei marchi italiani e pretende di pagare a un prezzo tedesco il latte. Il problema è che questo prezzo, che vede una diminuzione del 40% al litro, non ha visto altrettanto scendere il prezzo al consumatore. Grazie, sosteneteci. Grazie. Ma insomma, non è che prendiamo posizione su questo, stiamo seguendo come la protesta. Sono abbastanza sul piede di guerra per la loro causa. Ti ringrazio, grazie a Valentina, anche a Valentina Furlanetto, anche per questo aggiornamento. Veniamo alla vicenda Vatilix. Rubare quei documenti è reato, un atto deplorevole che non aiuta. Papa Francesco ha scelto di parlare apertamente dello scandalo Vatilix ieri all'Angelus in piazza San Pietro. Intanto Giuseppe Profiti, ex presidente della Fondazione Bambin Gesù, conferma Mix 24. Su Radio 24 la scelta di pagare la ristrutturazione dell'appartamento abitato dal Cardinal Bertone con i soldi della fondazione. Sentiamo un passaggio dell'intervista. Ecco, ma il Cardinal Bertone però dice di aver pagato di tasca sua la ristrutturazione, allora? Il Cardinal Bertone ha rimborsato le spese, la parte di ristrutturazione sostenuta dall'amministrazione dello Stato Città del Vaticano. Il contributo della fondazione, dato alla fondazione alla ristrutturazione, sarà coperto da un impegno formale dell'impresa costruttrice a riconoscere un contributo alla fondazione da impiegarsi per l'acquisto di attrezzature. Un contributo da darsi in due rate. Che poi non c'è stato? L'impresa ha avuto i problemi che hanno avuto tante imprese dovute alla crisi in questo settore. Quando sono andato via, la prima tranche non era stata ancora erogata. Senta, ma insomma è un caso, in qualche modo, un caso di ristrutturazione a sua insaputa, quella del cardinale? Ma non mi risulta che ci sia un obbligo per i cardinali o gli altri prelati che hanno diritto all'abitazione di servizio in Vaticano di concorrere alle spese di ristrutturazione. Il fatto che il cardinale abbia deciso con i propri risparmi di coprire questa ristrutturazione dimostra invece che non era a sua insaputa, ma sapeva benissimo quello che faceva, e mi permetto di sottolineare l'intenzione con la quale l'ha fatto. Così Giuseppe Profiti, l'intervista poi la potete sentire anche sul sito www.radio24.it. Siamo alla MotoGP, il giorno dopo il tentativo di rimonta fallito di Valentino Rossi nel Gran Premio premio di Valencia, le accuse dello stesso campione italiano a Marc Márquez di aver supportato l'altro spagnolo Lorenzo, di fatto truccando la gara. Ci si interroga anche sull'impatto che questa pessima fine di stagione possa avere su tutto il movimento motociclistico. Che tristezza questo finale, non si uccide così un MotoGP, soprattutto quando un intero paese, come capita sempre più raramente, si ritrova insieme davanti a un televisore, eppure di questa vampata collettiva resta solo la cenere. Valentino è stato bravo, ha risalito 22 posizioni, ma vederlo lì, inchiodato al quarto posto, mentre gli altri tre sfrecciano irraggiungibili davanti, gela l'apoteosi. Lorenzo sarà anche un campionissimo, ma se partecipi a una brutta recita, più che un mattatore di un mediocre attore. Le parole biscotto, biscottone non fanno più ridere, ci danno l'idea di uno sport che a furia di sportellate è andato fuori giri, dominato dai capricci di un ragazzino 22enne che non permette alla sua casa motociclistica di battere un concorrente, forse per motivi personali, ma motivi tristi, poco spettacolari, e infatti anche gli sponsor prendono le distanze. Valentino si è riscattato, tutti i suoi fans sono tornati con lui, ma ora a 36 anni non sarà facile rimontare il tempo che passa, e anche per noi ritrovarci a soffrire di passione tutti assieme in uno di quei miracoli che solo lo sport riesce ancora a fare. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa e poi subito dopo torneremo a parlare delle elezioni in Birmania e anche del perché sono così importanti. A tra poco. Effetto giorno. Eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le notizie principali, a partire dalla manovra che arriva in commissione bilancio al Senato, e arrivano gli emendamenti sull'innalzamento del tetto al contante. Il fronte comprende Movimento 5 Stelle, minoranza PD e SEL, fatto che potrebbe creare qualche problema all'esecutivo. La Birmania, dove le elezioni sono state vinte dal partito di Aung San Suu Kyi, ex carcerata come dissidente e Nobel per la pace, i risultati definitivi si avranno tra una settimana. Due militari americani sono stati uccisi da un cadetto giordano durante l'addestramento, l'uomo si è poi tolto la vita. Si passa dai vani ai metri quadri, l'Agenzia delle Entrate inserisce la misura nelle visure e varrà per il calcolo della tassa sui rifiuti. La borsa. Effetto giorno. Non è cambiata la trasmissione, è sempre effetto giorno, le notizie in 60 minuti, la canzone l'abbiamo scelta perché è la canzone che gli U2 hanno dedicato a Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e oggi vincitrice delle elezioni con il suo partito, anche se i risultati definitivi, come vi dicevamo, si avranno tra una settimana. E parliamo dell'ex Birmania. Torna da noi Antonio Fiori, che è professore associato ai relazioni internazionali dell'Asia all'Università di Bologna. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei, grazie. Che importanza rivestono queste elezioni? Ma le elezioni sono particolarmente importanti, se non altro perché sono le prime elezioni libere dopo 25 anni e naturalmente il risultato, nonostante fosse abbastanza ipotizzabile, ci dà anche la misura del cambiamento della Birmania. Quindi è importante per il cambiamento della Birmania, ha una qualche importanza anche a livello internazionale questo voto? Sì, senz'altro ha un'importanza soprattutto per i due grossi attori che si muovono all'interno della regione, vale a dire la Cina e gli Stati Uniti. Vedremo come impatteranno le elezioni su ambedue i paesi. Gli Stati Uniti naturalmente hanno visto favorevolmente il cambiamento determinato da queste nuove elezioni, Kerry si è già pronunciato in merito, i cinesi naturalmente sono sempre i convitati di pietra, anche perché tradizionalmente hanno un allaccio economico molto forte con la Birmania. E vedremo dunque che cosa succederà nelle prossime settimane anche a livello internazionale in seguito a questa vittoria. La ringrazio anche per la sua rapidità e per la sua sintesi, il professor Antonio Fiori, professore associato di relazioni internazionali dell'Asia all'Università di Bologna. Come sapete, oggi nella giornata di lunedì l'effetto giorno è lievemente diverso. Adesso c'è Mario Platero con America 24, poi ci risentiamo per i saluti finali prima della viabilità e poi ci sarà la nostra rubrica sull'auto trasporto, dunque Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta America, America, shed its grace on thee. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The U.S. labor market rebounded in October, according to the Labor Department. Employers added 271,000 jobs, its biggest increase since December 2014. L'occupazione in America è andata benissimo, risultato chiave per il mese di ottobre. 271,000 nuovi salariati dipendenti, quasi 100,000 in più rispetto alle stime degli esperti. Ecco, questo ha cambiato un po' tutta l'equazione. Adesso forse la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse e c'è un dato di fondo comunque, cioè l'America si presenterà al G20, a cui dedico la copertina di questa settimana. Il G20 si terrà in Turchia, Antalya, a partire da domenica e poi lunedì. Il G20 cercherà la via per il rilancio della domanda interna, per il rilancio degli investimenti, per il rilancio della produzione, per il rilancio, insomma, delle economie in quei paesi che oggi, come dire, vivacchiano un po' come l'Italia. E dunque io ho avuto la possibilità di fare una chiacchierata con Caroline Atkinson e lo Sherpa di Barack Obama per la preparazione del G20. Con lei abbiamo parlato anche di cose italiane. E qui, da questa chiacchierata, insomma, mi sono fatto un'idea. Per esempio, il ponte sullo Stretto di Messina, beh, come dire, ottima idea, perché la Atkinson preme per gli investimenti in infrastrutture, soprattutto nei paesi con una domanda debole come l'Italia, che hanno bisogno di rilanci e di stimoli fiscali per l'economia. Attenzione però a non abbassare la guardia sul fronte delle riforme. Sentiamo la Atkinson. Well, I would say that Italy has been carrying out economic policies that its government chose and put in place in order to strengthen its economy. I think it's important for Italy to and for Prime Minister Renzi's reforms to continue. And at the same time, it's important obviously for the whole European area to build up its investment. Ecco, la Atkinson dice: procedere con gli investimenti è importante per tutta l'area euro. Oggi le condizioni per l'indebitamento sono irripetibili ed è bene che se ne approfitti su tutti i livelli. Vorrei anche dire che l'Italia ha seguito politiche economiche che il suo governo ha scelto e messo in pratica per rafforzare la propria economia, ma credo che sia importante per l'Italia e per il primo ministro continuare a portare avanti queste riforme. Come dire, e devo dire poi questo commento tra l'altro giunge pochi giorni dopo il varo della legge di stabilità, della legge finanziaria. Come dire, non si è ancora fatto abbastanza e questo è il momento, insomma, per un approccio bilanciato che punti a tagliare i rami secchi, andare avanti con le riforme, nel nostro caso ad affrontare di petto quello che è il peso della pubblica amministrazione, rafforzando allo stesso tempo le radici e la pianta centrale, appunto con l'incoraggiamento di investimenti importanti. Ecco, è in questo senso che il ponte sullo Stretto di Messina è sicuramente una cosa positiva, non solo per lo sviluppo che porterà al sud del paese, ma anche proprio per l'impatto diretto, per l'effetto moltiplicatore che ci sarà da questi investimenti. E qui c'è un messaggio molto preciso per la Germania e per l'Olanda, colpevoli secondo la Atkinson di aver accumulato dei surplus commerciali che non sono sostenibili. To some extent Germany's current account surplus reflects the fact that German consumers are saving and their population is aging, but it also reflects that there is not enough consumption demand in Germany and investment demand. Ecco, sentite, il messaggio è molto chiaro. In una certa misura l'attuale surplus della Germania riflette il fatto che i consumatori tedeschi stanno risparmiando, la popolazione sta invecchiando. Riflette anche il fatto che non c'è una domanda abbastanza forte nei consumi e negli investimenti. Quindi l'incoraggiamento pubblico per una crescita dei salari affiancato da un aumento della produttività e dei grandi investimenti nelle infrastrutture aiuterebbe a riportare l'equilibrio. Al G20 sicuramente emergerà chiaro anche questo messaggio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Mario24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, il messaggio qual è avvicinandoci a questo G20? Beh, di migliorare e di far meglio. E dunque di Banks, nuovo single della cantante americana Gillian Rose Banks, Better, meglio, fate meglio. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!